9 in punto. L'Italia è un paese grandioso, ma se abbiamo delle scadenze ci impegniamo meglio. Le parole sono del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, annunciando da Cernobbio l'intenzione di candidare l'Italia alle Olimpiadi del 2024. E pensare che è passato solamente un anno da quando Mario Monti disse no alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020, un impegno di spesa che in quel momento il governo non si sentì di prendere. Delle garanzie che bisognava dare al CIO che il governo appunto non si sentì di prendere, anche sulla base di un rapporto che fu presentato. Abbiamo una delle persone che partecipò alla redazione di quel rapporto per Roma 2020 e tra poco ci parleremo. Allora, dice Letta, l'Italia, se abbiamo delle scadenze ci impegniamo meglio. Si potrebbe anche dire che le ultime esperienze ci raccontano in realtà che quando abbiamo delle scadenze ci riduciamo all'ultimo minuto e le cose vengono fuori raffazzonate. Un esempio su tutti è quella vela di Calatrava per i mondiali di nuoto del 2009, che doveva essere questo appunto stadio del nuoto meraviglioso e che in realtà non è mai stato completato. È di fatto un'incompiuta, ormai un elemento di paesaggio, i lavori sono fermi. Ed è un esempio tra tanti su questo tema. E poi c'è il tema più in generale delle Olimpiadi, insomma, quanti soldi effettivamente danno, quanta, al di là, come dire, della visibilità, qual è il vero ritorno economico. Sono tutti argomenti che vogliamo affrontare oggi. 800 24 00 24, ci state già scrivendo sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24. Vi confesso personalmente che sono molto diviso tra le due cose, perché insomma da una parte le molte perplessità, dall'altra parte naturalmente l'idea che l'Italia possa ospitare questo grande appuntamento, no, in parte inorgoglisce. Allora, Pierluigi Battista, buongiorno. Pronto? Buongiorno, eccomi qua. Eccolo qua, editorialista del Corriere della Sera, ha scritto ieri un commento feroce su quest'idea che l'Italia possa ospitare le Olimpiadi del 2024. Perché? Beh, perché in questo caso va invertito l'onere della prova, no? Cioè l'onere della prova è che la dimostrazione, dopo una serie impressionante di fallimenti, di sprechi, di corruzione, che questa volta le cose dovrebbero andare meglio. Però questo naturalmente il sospetto è più che legittimo, no? Ha parlato della vela di Calatrava, c'è solo la vela di Calatrava. Sembra che adesso bisogna comunque ristanziare 400 milioni di euro buttati via, naturalmente annunciati quando allora come una grandissima occasione di lavoro, di rinnovamento per Roma e così via. Possiamo parlare della stazione ferroviaria di Vigna Clara dei mondiali del 90, anche quella mai messa in funzione, milioni e milioni di euro, allora miliardi di lire. Vogliamo parlare di una piscina che purtroppo l'architetto, l'ingegnere e gli esecutori non hanno previsto che sarebbe stato un metro più lungo o più corto, adesso non ricordo bene, della lunghezza regolamentare, e che quindi è stata buttata via insieme ad altri milioni di euro. Vogliamo parlare dei criteri con cui vengono arbitrariamente assegnate le gare di appalto, sempre alle solite ditte. Insomma, mi sembra così evidente che sarebbe meglio che Roma, il grande evento di Roma dovrebbe essere finalmente un rammodernamento e una manutenzione ordinaria, dotare Roma di un decente sistema di trasporto pubblico, dotare Roma di un decente impianto di smaltimento dei rifiuti, tutte cose che si ostinano a non fare, e invece si aspetta il grande evento salvifico, base alla quale finalmente l'Italia raggiunta, come dire, operosa e così via, possa fare tutte le cose che non riesce a fare normalmente. Questa è una logica che secondo me va rovesciata. Io sono convinto che questa cosa ovviamente è opinione comune in tutto il mondo, per cui quando anche si dovesse arrivare a una proposta per Roma 2024, il problema non si porrà perché nel mondo ovviamente Roma non verrà scelta. Allora, abbiamo un'opinione che suppongo opposta, che abbiamo con noi Mario Pescante, membro del CIO, che fu presidente del comitato promotore di Roma 2020, che ringraziamo particolarmente perché per lui è un orario infame, nel senso che si trova in questo momento a Buenos Aires. Buongiorno Pescante. Buongiorno in tutti i sensi, sì, buona sì. Alba. Buona alba. Allora, ha sentito Battista, che cosa dice lei? Ma guardi, con Battista, mi permetto così, ecco, di definirlo subito per cognome in maniera quasi familiare, ci siamo già non scontrati ma incontrati prima durante la campagna di Roma. Io non è che posso dargli torto, l'unica cosa che posso dire è che se siamo ridotti in questo modo e che bisogna spaventarsi per un'Italia che non solo in occasione degli eventi sportivi, ma se vogliamo parlare di eventi drammatici, quale terremoti ed altro, nelle circostanze in cui ci sono investimenti pubblici, ci sono danni collaterali che riconoscono solo essere veri, quelli che ha segnato Battista, non potrei aggiungere degli altri, se siamo ridotti così, non so, la strada è il suicidio collettivo. D'altra parte dire invece Olimpiadi facciamo altro, insomma, ecco, si dimentica che questo è un discorso che ha fatto il Presidente, anzi mi permette una premessa a questo discorso, altrimenti poi regge poco la replica a Battista, sia per la professionalità del giornalista, sia perché è molto radicato in questo suo convincimento. Mi permetto solo di dire che poi non è proprio vero che io sono qui a spiegare perché noi non abbiamo gareggiato insieme a Madrid, voglio dire, no? Gli stessi problemi, nessuno mi ha detto perché in Italia si ruba e basta. Ho dovuto dare spiegazioni, ma non facili da dare. Insomma, la mia premessa è la seguente. Cominciamo dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio. Evidentemente si è trattata di una scelta ponderata, perché è stata di una tempestività, cioè è venuta pochi secondi dopo la assegnazione Olimpiadi a Tokyo e non prima, perché sarebbe stata, come dire, dannosa questa dichiarazione prima per il prosieguo dell'eventuale candidatura e il luogo anche dove è avvenuta. Io credo che l'aspetto positivo sta di un discorso generale che non riguarda solo gli Olimpiadi, cioè evidentemente il Presidente del Consiglio ha ritenuto che, come tutto il Paese per la verità, e ritengo lo stesso Battista probabilmente, che al momento della solidarietà, dei tagli e dei sacrifici, ammesso e non concesso che fosse questa la strada per uscire, esclusiva per uscire dalla crisi, forse è arrivato il momento di pensare anche un po' agli investimenti, ma questo voglio dire è letteratura comune e la fermo un attimo Pescante, abbiamo una notizia. Breaking news. È morto Steno Marcegaglia, fondatore e presidente dell'omonimo gruppo dell'acciaio, è mancato a Milano, aveva 83 anni ed era il padre dell'ex presidente di Confindustria, Emma. E grazie alla nostra Anna Migliorati per questo aggiornamento. Dunque Pescante, concluda. Concludo dicendo che questo messaggio positivo non riguarda solo le Olimpiadi, poi si sceglieranno altre cose, purché si tratti di un progetto di investimenti concreti. Perché le Olimpiadi? Ma innanzitutto perché a certe condizioni, e ne parlerò brevemente dopo, proprio per venire incontro alle preoccupazioni non solo di Battista, sono dell'opinione pubblica italiana, meno mondiale, ma quella italiana, questa preoccupazione ci sono, da me condivise, un'Olimpiadi, cominciamo col dire che si potrebbero rilanciare due settori che sono i settori traino nel nostro paese, la edilizia e il turismo, primo discorso. Secondo discorso, c'è la concessione da parte del CIO di contributi che immediatamente serve all'ordine di circa 2 miliardi di euro. Poi evidentemente ci sono anche i costi, ma se il progetto viene portato avanti così come lo ha portato avanti Madrid è arrivata fino in fondo, la fuga prematura del Presidente Monti, il quale ci disse molto ovviamente la Spagna farà la stessa scelta da 15 giorni, non solo non è avvenuta, ma loro sono stati fino in fondo in gara, hanno perso ma per altri motivi. Ecco, dico che molto probabilmente un'Olimpiadi può essere un progetto concreto, certo, a certe condizioni, l'ha detto Battista, sono quelle, cioè trasparenza e controlli. I danni che ha citato, che ha citato Battista non sono avvenuti nell'ambito del mondo dello sport, ma sono danni collaterali di chi addirittura attraverso leggi ha consentito che si utilizzassero grandi eventi per vicende se poco commendevoli. Io credo però che ci sono altri esempi che potrebbero essere fatti, tipo l'Olimpiadi di Torino, tutto questo non è avvenuto, o nel piccolo i giochi mediterranei di Pescara. Poi in campo mondiale Monti invocò la vicenda, secondo me non a proposito, della Grecia. Beh, io vorrei far segnalare che c'è stata di Sydney e più recentemente Londra, che oggi hanno fatto, non oggi, oggi parlo in termini di fuso orario, c'è stata la loro relazione a Buenos Aires qui all'Assemblea del CIO e hanno dimostrato che è stato un vantaggio anche finanziario. Allora, non ci arrendiamo, non ci arrendiamo. Allora, ma lo dico nello sport come in altre cose, se è irreversibile che questo paese debba rubare, debba fare spese inutili, sentite, io non vedo altra alternativa, non vedo perché un progetto speciale per Roma, e questo non è un progetto romano, è un progetto che riguarda tutto il paese, ho citato edilizia, ma ho citato anche il turismo, allora voglio dire, il futuro è veramente molto incerto del nostro paese. Allora, lei parlava del sentimento degli italiani, ne abbiamo un piccolo specchio naturalmente attraverso i social network, nella fattispecie la nostra pagina Facebook, sulla quale ci stanno scrivendo in molti. La domanda che facevamo, con dovuta premessa, è un paese per Olimpiadi, tra chi come Barbara ci risponde secco no, Domenico Rusconi manco i giochi senza frontiere, scrive, le Olimpiadi direi di evitarle, Cristiana ci scrive è evidente che non lo è, Francesco no, non lo è, scherziamo, Bruno è evidente che anche questo fa parte di una sceneggiata, ci stanno prendendo per i fondelli, Angela siamo totalmente inadeguati a gestire un evento del genere in tutte le sue fasi e sotto tutti gli aspetti. Allora, fatemi salutare gli altri due ospiti, Dario Ricci, il nostro collega Dario Ricci, la nostra voce sportiva, buongiorno Dario, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi Lanfranco Sen, professore ordinario di economia regionale all'Università Bocconi, come vi dicevo è persona che ha contribuito a redigere questo rapporto che poi è stato messo nelle mani del Presidente del Consiglio Mario Monti, quel rapporto su Roma 2020 redatto da una commissione alla quale guidata da Marco Fortis, della quale Sen faceva parte. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Senta, ma rendono queste Olimpiadi oppure no alla fine? Perché insomma è chiaro, dipende da come si fanno, per carità di Dio, però rendono oppure no? Ma diciamo che vanno alla pari, sostanzialmente vanno alla pari. Io non credo che sia un investimento produttivo che consenta di fare chissà quali balzi in avanti nel PIL. Non ci si perde se le si gestisce bene. Dal punto di vista economico, però, io credo che anche quanto diceva il presidente Pescante poco fa, sicuramente le Olimpiadi, a ospitare eventi, grandi eventi come le Olimpiadi, l'Expo, non sono soltanto un problema economico, perché sennò facciamo dell'economicismo invece che che la scommessa sulla possibilità che il paese ce la faccia. Sono molto d'accordo anche sul commento che faceva, io amo molto e leggo sempre Battista, però non concordo sul fatto che se ci sono distorsioni e corruzioni, queste si annidino ovunque, si debbano annidare ovunque, perché se no non facciamo assolutamente più nulla, perché allora neanche coprire le buche, neanche fare ospedali, neanche fare le strade necessarie ci lascia indenni dalla possibilità di una ripresa. Certamente è un problema culturale e da questo punto di vista mi ricordo il commento che avevo fatto a Monti, gli ho detto guarda che comunque ci vuole, oltre che un calcolo economico, ci vuole anche una spinta di ottimismo e di positività sulla quale quando buttiamo viceversa acqua sul fuoco, quando diciamo che non siamo capaci di fare niente, in realtà ci autoconvinciamo di questa cosa. Io sono convinto che c'è un aspetto, di impegno non solo psicologico, ma di entusiasmo e di positività, che è uno degli elementi che noi dobbiamo ridare al paese, arrivo a dire con le Olimpiadi o con qualunque altro elemento, ma poi dopo magari dirò qualcosa sul problema della fungibilità della spesa, cioè delle spese alternative, ma sicuramente o non torniamo a essere positivi, oppure la teoria economica dice che le aspettative sono cumulative, quanto più sei negativo, tanto più diventerai negativo e viceversa. Allora, l'impatto economico, in realtà poi in quello studio che voi presentaste c'erano i calcoli fatti da Prometeia, indicava nell'arco di 10 anni, mi pare, un incremento del PIL dell'1,2%, esatto, in tutti i 10 anni, quindi diciamo non questa... Dell'1,4 distribuito in modo anche differenziato, sì, tra le naturalmente, regioni. Tra le regioni, a seconda degli anni, se fosse stata Roma sarebbe stato nel Lazio un incremento di oltre il 6%, questi più o meno erano i dati. Allora Pierluigi Battista, io so che ci deve salutare, poi ci deve salutare anche Mario Pescante, immagino che non ti abbiano convinto. Ma vedi, il problema non è, diciamo, pessimismo o ottimismo, è che le cose accadono e accadono in modo sistematico. Non è che uno dice va bene, ma adesso facciamo tutto bene. No, bisogna capire perché sono andate così male. Questo è il punto. Dato che nessuno invece, non dico i miei gentili interlocutori, ma quelli che propongono queste manifestazioni, si pongono anche lontanamente il problema. Cioè non possono dire, non, è andata così. Devono dire perché non ha funzionato la stazione ferroviaria di Vigna Clara, chi si è preso i soldi, come è andata a finire quella roba, come evitare che anche in futuro la stessa cosa, così si fa. A me piacciono le infrastrutture, però io so che l'autostrada del Sole fu fatta in pochi anni, 700 chilometri, con ponti, viadotti, vincoli, gallerie, una cosa meravigliosa in 5 anni. Qui invece non si riescono a fare pochi chilometri dalla Salerno a Reggio Calabria. Qui c'è un progetto sulla metropolitana C che cambierebbe il volto di Roma, non si riesce a bloccare, a sbloccare, non sarà per anni, avremo soltanto cantieri. Abbiamo ogni giorno lo scandalo civile di centinaia di migliaia di persone che vanno sui carri bestiame che sono diventati i treni pendolari che arrivano a Roma tutti i giorni. Quello sarebbe un grande rammodernamento, sarebbe anche PIL. Sarebbe la possibilità di dare lavoro per fare nuovi vagoni, per rinnovare le rotaie, per mettere appunto le stazioni ferroviarie, cioè non è che non si deve fare. Invece noi cosa facciamo? Diciamo azzeriamo tutto, facciamo finta che non abbiamo buttato una quantità mostruosa di quattrini, non capiamo perché li abbiamo buttati e ripartiamo sempre nella stessa cosa, cioè il grande evento salvifico. Poi i giornali del 2026-2027 diranno guardate che fine ha fatto l'impianto sportivo, bla bla bla, guardate la cricca, tutto è così, perché le cose si ripetono se non si capisce perché si sono compiute. Questo è il punto fondamentale, non è una questione di ottimismo o di pessimismo, ma fa parte della vita di tutti noi. Se noi ripetiamo sempre lo stesso errore, dobbiamo individuare la causa di quell'errore, non possiamo dire la prossima volta non lo facciamo più. Benissimo, e questo è proprio il punto, andare a vedere perché si è sbagliato nelle volte precedenti. Io ti ringrazio, grazie per la partecipazione alla trasmissione. E grazie a voi. Alla prossima, anche Mario Pescante ci deve salutare se non sbaglio, vero? Ma qualche minuto ancora. Qualche minuto, perché noi abbiamo una pausa. Guardi, la trasmissione finisce tra 25 minuti, quindi le direi rimanga con noi tutto il tempo a questo punto. Abbiamo una pausa, poi voglio sentire qualche ascoltatore, il nostro Dario Ricci che non abbiamo ancora sentito, insomma, tra un attimo. 9 in punto. Sentiamo Gianni dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Prego, rapido, mi raccomando. Sì, io mi ricordo ancora le porcate che sono state fatte con le Olimpiadi di Roma e preferirei che non si ripetessero ancora, perché quello è poco ma sicuro se riescono ad ottenere le Olimpiadi. Grazie Gianni, parla delle Olimpiadi di Roma 60 naturalmente. Sì. Daniele da Torino, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, prego. Buongiorno. Torino 2006, un'esperienza con luci e ombre. Quali luci? Torino è entrata sul circuito del turismo internazionale, abbiamo però lì impianti sportivi inutilizzati. In pratica parlare di Olimpiadi sembra essere solo un business, non c'è dietro un progetto di educazione sportiva, di sviluppo dello sport in Italia, come peraltro ha fatto Pechino per Pechino 2008. Opere e infrastrutture fatte in città, qualcuna utile e qualcuna assolutamente inutile. Per cui più che Roma 2024 sarebbe bello sentire un Palermo 2024. Roma non ha bisogno di turismo, di infrastrutture, sappiamo quali sono i problemi di Roma, quindi... Quindi immagina una cosa più decentrata, va bene. Angelo da Cagliari, buongiorno. Buongiorno, prego. Io concordo sostanzialmente con l'opinione di Battista, perché lo Stato ha dimostrato più volte l'immaturità nel gestire i grandi eventi e nella realizzazione anche delle grandi opere, delle grandi infrastrutture. Mediamente vanno a costare il doppio rispetto agli altri paesi. Non si concludono mai e quando si concludono vengono anche gestite in maniera, insomma, quanto approssimativa. Noto anche un'altra cosa, di recente nei mondiali di nuoto, considerati da tutti una grande disfatta, diciamo l'autore principale di quell'organizzazione oggi è diventato presidente del CONI, riverito e osannato, non esiste neanche la meritocrazia poi sostanzialmente, male ormai atavico del paese. Allora voglio però portare anche qualche opinione che ci arriva via SMS invece di chi dice no ragazzi, cosa stiamo parlando? Scrive Patrizia, abbiamo bisogno di incentivi e di mete da raggiungere per poter dare il meglio. Nicola mi scrive su Twitter, un paese normale, non dico serio, non può nascondersi per sempre dietro il non siamo in grado, si deve migliorare. Ora, io però voglio sentire il cronista, il nostro Dario Ricci, un po' di Olimpiadi, mondiali, anche gli stessi mondiali di nuoto, sì, Olimpiadi, sì. Mondiali di calcio, mondiali di nuoto, insomma un po' di cose di questo genere da inviato te le sei fatte. Allora, proprio una tua sensazione su questi eventi, sulla gestione di questi eventi. Ma direi che l'idea del luci ed ombre sintetizza in modo efficace, no? Questo che sono e quello che è l'impatto di questi eventi. Una cosa è sicura, che non è che se non ci candidiamo per le Olimpiadi il giorno dopo concludiamo la Salerno-Reggio Calabria, facciamo la riforma della legge elettorale, la riforma della giustizia. No, non sono due cose legate, mentre lo stesso comune deve essere il metodo nuovo. Confrontarsi e scegliere un candidato, la trasparenza, il controllo di costi, spese e risultati. Ecco, questo che per quello che ho visto nel mondo è su per giù la normalità, perché poi abbiamo visto quante criticità hanno creato grandi eventi in Sudafrica, le tensioni che ci sono a Rio de Janeiro per i mondiali e per le Olimpiadi, cioè il Brasile mette in discussione i mondiali di calcio, no? Sì. Per capirci. Quindi sono mali spesso comuni, ma il metodo che dobbiamo prendere dalle esperienze più riuscite, e cito soprattutto Londra. Londra è una città che ha vissuto le Olimpiadi ma innervandole nel proprio tessuto, senza enfasi, senza clamore, con uno spirito molto britannico di assolvere a un compito con gioia. È stata una cosa meravigliosa. Ecco, perché non pensare che anche Roma o Milano, vedremo, per il 2020, per quella candidatura, erano in corsa, lo ricordiamo, anche Palermo e Venezia, ci avevano provato, insomma. Perché non possiamo fare anche noi come fanno gli inglesi? Perché siamo pizza, mandolino, sole e spiaggia? No, possiamo lavorare anche noi con quel metodo. Certo, valga anche l'esempio di Tokyo, è inutile fare un'Olimpiade diffusa su un territorio di 40 chilometri, meglio concentrarla su 8 chilometri in modo da non alterare il tessuto della città. Allora, questo argomento è molto interessante perché poi sia col tuo discorso sia con quello che abbiamo sentito da Pierluigi Battista e richiamo in causa il professor Sen, io ho l'impressione, professor Sen, che stiamo parlando di Olimpiadi Beh, e questo alla fin fine era anche l'obiettivo della trasmissione, se vogliamo. Stiamo parlando di Olimpiadi, in realtà per parlare di qualcosa di più ampio, e cioè la nostra capacità di gestione dei grandi eventi e delle grandi opere, ossia la nostra capacità, anche dal punto di vista amministrativo, di mettere in campo un metodo che assicuri trasparenza, tempi certi, rapidità di costruzione e di realizzazione delle opere e così via. O no? Questo è il problema alla fine, cioè non è solo la questione dell'Olimpiade, la questione più generale del paese. Sono molto d'accordo, infatti per certi aspetti il tema della mancanza di una cultura amministrativa, organizzativa eccetera, non riguarda le Olimpiadi, riguarda il modo con cui noi gestiamo il pubblico e il privato entro certa misura gestiscono il paese. A me hanno colpito due esempi che vorrei fare. Uno riguarda Expo, quindi non c'entra con le Olimpiadi, ma è molto simile. No, ma è perfetto, professore, perché sono molti ascoltatori che mi stanno scrivendo proprio su Expo, cioè mi dicono: pensiamo prima a Expo 2015 e poi semmai ragioniamo di Olimpiadi. Prego, professore. Certo, ma un giorno ho partecipato ad un incontro di Ambrosetti, organizzato da Ambrosetti insieme all'amministratore delegato Sala. E a un certo punto uno dei partecipanti, un albergatore, chiede all'amministratore delegato di Expo: ma voi che cosa fate per noi? Cioè Expo che cosa fa per riempire gli alberghi che dovrebbero partecipare, in cui dovrebbero arrivare i turisti, i visitatori di Expo? E giustamente Sala gli ha risposto: ma veramente non siamo noi che dobbiamo pensare alle opportunità che voi dovete o potete cogliere. Noi ci occupiamo di realizzare il sito e la manifestazione e voi cogliete le opportunità. Questo mi dice che noi siamo sempre in attesa che qualcun altro risolva i nostri problemi. Allora, noi siamo incapaci di gestire grandi eventi, grandi importanti sfide dello sviluppo del paese, proprio perché non ci assumiamo delle responsabilità e rimandiamo sempre a qualcun altro il compito di risolverle per noi. Sicuramente anche le stime economiche che si fanno generalmente per riuscire a capire quanto potrà rendere un grande evento, l'Olimpiade, l'Expo, una fiera, un aeroporto, eccetera, dipendono molto dalla capacità di cogliere le opportunità che vengono offerte. Questo credo che sia un punto importante, perché vuol dire che se noi impostiamo le cose mettendoci a fare veti reciproci, a esprimere opinioni non basate su informazioni oggettive, trasparenti e così via, il rischio è che comunque non portiamo a casa, non convergiamo verso un obiettivo. Questo è uno dei motivi per cui guardi la TAV per certi aspetti, no? Cioè, porto degli esempi che riguardano la cultura con cui noi affrontiamo lo sviluppo. Abbiamo sempre qualche cosa d'altro che ci piace di più. Sono molto d'accordo anche con quello che diceva Ricci un momento fa. Non è che se noi non facciamo le Olimpiadi l'indomani riusciamo a fare la riforma della giustizia o dedicare più spese alla ricerca. E sacrosantamente questi sono obiettivi forse prioritari in un elenco astratto di obiettivi, diciamo, pubblici o sociali. Ma sicuramente non sono gli stessi decisori, le risorse non sono le stesse, chi potrà investire o chi potrà spendere nella realizzazione delle Olimpiadi non sono quelli che investono nella giustizia, nelle infrastrutture, eccetera. Quindi non rimandiamo mai ad altro, affrontiamo un problema che non è un problema per volta in un'ottica particolare, particolaristica. Teniamo conto di tutto l'insieme dei fattori, ma poi concentriamoci su quell'obiettivo. Ci interessa e per quali motivi fare le Olimpiadi? Da questo punto di vista non possiamo mettere in questione la cultura, le alternative possibili, perché non è questo il modo con cui si può arrivare ad una decisione motivata e giustificata. Allora, mi scrive Fabio Giatti su Twitter: sono stanco di sentire solo pessimisti, vogliamo tornare a crescere e mostrare al mondo che ce la possiamo fare o no. Sì, lo vogliamo fare, però Pescante, come poneva Battista e come diceva il nostro Dario Ricci, c'è un problema di metodo da questo punto di vista. Cioè, prima bisogna capire gli errori che si sono fatti, dove si sono fatti. Trovare un metodo appunto perché questi errori non vengano fatti più, e anche se vogliamo modificare nel profondo la nostra cultura amministrativa, perché il tema mi sembra quello. Beh, insomma, ecco, modificare la cultura amministrativa passando per Olimpiadi è un problema un po' complicato. Quello che però mi vorrei rilevare rapidamente: si respira quest'area di pessimismo che sconfina col disfattismo. Ho sentito dire due cose: Olimpiadi Roma 60, ma scherziamo, ne parlano ancora in tutto il mondo dopo mezzo secolo come un'Olimpiadi fantastica che ha arricchito la città, non ci sono stati errori, l'aeroporto di Fiumicino, anche i mondiali di nuoto, tirare in ballo il presidente del Colli Malagò, per la verità, ma lo sport non c'entrava nulla nei misfatti che si sono verificati laddove si fossero verificati, non lo dico io, l'ha detto la magistratura, e c'è quest'area qui. Ora parliamoci con chiarezza, però capire non è difficile, io le idee chiare ce l'ho a riguardo, e non riguardano lo sport, ma questo è un discorso a parte che il mondo politico deve approfondire. Però voglio dire una cosa con molta chiarezza: io ho sentito parlare di Palermo, decentrare, guardate, questa candidatura sarà difficilissima, sia perché in Europa ci saranno probabilmente altre candidature, c'è il centenario dei giochi di Parigi che non ha più organizzato Olimpiadi, che nel 24 c'è gli Stati Uniti, dal 96 non sono più nel palcoscenico olimpico, si sono alternate tre continenti, Asia, Pechino, Europa due volte, Australia, in più ora ci sarà Rio, noi nell'Olimpismo parliamo di Americhe, non Americhe, è una specie di sesto cerchio, di sesto continente, gli americani mancano da 28 anni e ora probabilmente sarà Los Angeles, diamoci una regolata. E chiudo dicendo, guardate, sono perfettamente d'accordo di fare un accertamento in questa vicenda, guardate, è molto facile poi capire quello che è successo se lo si vuole approfondire. E termino ancora dicendo, al pessimismo e al disfattismo aggiungiamo un altro pericolo, che è quello dei comitati dei no, che spesso sono per il non fare, per fare altre cose, abbiamo avuto dimostrazioni, no? Un elenco di cose da fare non facendo le Olimpiadi. Ora, se non c'è unità politica, sociale e un'opinione pubblica alla quale vanno spiegate queste cose con il correttivo, guardate, è inutile cominciare, non ho titolo per dirlo io, perché sì, è il presidente del CONI che si deve esprimere, Malagò, però ho una certa esperienza internazionale per dirvi che iniziare una battaglia di questo tipo, con un fronte che discute su se stesso, con questo pessimismo, non questo, per ora l'ho rilevato solo le assicuro che è abbastanza diffuso. No, è oggettivamente abbastanza diffuso questo pessimismo. Abbiamo una pausa per la viabilità. 9 in punto. Per non dare tutte voci contrarie, mi scrive anche sempre su Twitter Giuseppe Munno: sì alle Olimpiadi e che siano anche l'occasione per rivoltare la burocrazia che blocca il paese. Sentiamo invece Elisabetta da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Ho sentito parlare tanto di pessimismo, ma la gente non è che è pessimista così perché si sveglia la mattina e vuole esserlo. Ma ecco, quello che avevo detto prima alle vostre collaboratrici, ma questi signori hanno mai preso le metropolitane a Roma, chiamiamole metropolitane? Eppure la situazione è questa, a me spaventa molto questo e non sono pessimista, mi creda. Grazie Elisabetta, questa era la sua idea. Sentiamo Angelo dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io volevo esprimere la mia opinione relativamente alle Olimpiadi che si sono svolte a Londra. Abbiamo visto 40.000 volontari che sono stati retribuiti una sterlina cada uno, compresi vari Geoff Michael, Coldplay. Beh, se sono volontari, abbia pazienza Angelo, se sono volontari, anzi, non li dovevano nemmeno pagare, magari dargli da mangiare. In Italia, il suo omettesimo Fabio Fazio ci prende €1 milione con la Litizzetto altri 500.000 euro. Ma e cosa c'è? Tutti hanno preso una sterlina di compenso. Ma cosa c'è? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'è? Ma scusi, ma Fabio Fazio va a fare il volontario alle Olimpiadi di Roma, dai, su. Allora, Dario Ricci, avevi una domanda per Pescante. Sì, è una domanda per il Presidente. Presidente, per quella che è la sua esperienza e la sua conoscenza del CIO, certo non banale direi, c'è un'altra candidata italiana rispetto a Roma nella mappa attuale del CIO? Perché chiaramente l'esperienza del 60, il fascino della capitale pesano, no? in quel contesto. Quindi il dibattito che c'è all'interno dei nostri confini tra Milano e poi qualche altra città verrà fuori in modo più o meno credibile. Esiste anche a livello del CIO oppure Roma effettivamente ha già un vantaggio? Ma guardi, innanzitutto approfitto del fatto di avere la linea per scusarmi, ma terminato il mio intervento, io fra qualche ora ho l'elezione del nuovo presidente del CIO. Sì. Tra l'altro, sorprese in vista? Sorprese in vista per quell'elezione, presidente? La domanda è stimolante, le posso dire solo questo: la scelta spetta al CONI e non al CIO. In ogni caso, prima ho fatto riferimento a potenziali candidature, si parla già di Los Angeles, prima di Washington, forse San Francisco, si parla di Parigi, e diamoci una regolata, come si dice banalmente, non so, se vogliamo contrapporci con altre città, facciamolo pure, il CIO non è che suggerisce farle a Roma. Comunque, mi sembra di dire pescare. Tra le difficoltà di giochi che non si svolgono in America da 24 anni, si arriva contrapposti a città. Quindi, Pescante, si chiamano Los Angeles, o si chiamano San Francisco, Washington, mi scusi, e poi Parigi in Europa. Mi scusi, quindi il punto è questo: anche volendo proporre la candidatura di Roma, le possibilità sono molto poche. No, non sono poche. Questo è un discorso che fece il presidente del Consiglio Monti quando disse: ma noi non diciamo, innanzitutto nello sport si scende in campo, oserei dire quasi a prescindere, ci sono difficoltà, se c'è unità di consensi, e questo è il punto fondamentale, qui sono venute tre città che hanno problemi seri, c'è la Madrid, c'è la Istanbul di carattere politico, sociale, e ce l'ha per motivi che tutti sappiamo Tokyo. Non c'è stato nessun comitato del no che in Italia comincerà già a costituirsi domani, non ci sono stati questi pianti di vario tipo che purtroppo ci condannano, la signora parla di metropolitana, come stiano facendo le Olimpiadi a Roma, da domani l'avete già detto, le metropolitane di Roma funzionano bene, oppure i treni per i pendolari. Se il clima è questo del paese, non è isolato a coloro che prendono il computer per dare, giustamente, proprio pensiero ci mancherebbe altro, molto lontano andiamo. Nel caso invece che ci sia un'unità di intenti, si va fino in fondo, e le carte Roma, l'Italia se le può giocare, poi regoliamoci, ecco. Se d'altra parte c'è Washington, Los Angeles, San Francisco o Madrid o altre città di questo tipo, non sta a me dare una risposta, già capito quale sarebbe. Ok, sì, abbiamo già capito quale sarebbe. La ringrazio, Pescante, buona giornata. Arrivederci, buona giornata. Buona giornata, buonanotte in realtà. Enrico da Varese, buongiorno. Buongiorno, prego. Io volevo dire una semplice cosa. Prima un ascoltatore, o forse un vostro invitato, ha detto che non sappiamo qual è il problema delle infrastrutture che si devono creare per un grosso evento. Secondo me invece il problema è uno e uno solo: non si riesce a creare mai un direttivo, continuano a cambiare il presidente organizzatore dell'evento per volte, finché alla fine si arriva agli sgoccioli. Non hanno deciso ancora niente e si dà tutto in mano alla Protezione Civile, in modo che possa fare lei tutto di corsa alla fine, dando appalti a gente che non ha fatto il concorso, che non ha fatto niente. Questo qui è il problema principale. Questa situazione, secondo me, è voluta. Guardi, è creata ad hoc. Guardi Enrico, secondo me il problema che abbiamo sottolineato fino adesso, cioè che è un problema di metodo, nel momento nel quale si decide di ospitare un grande evento, bisogna darsi un metodo che eviti gli errori del passato. Chiudiamo con lei, Sen, in un minuto. Restiamo là, il tema è quello. Sì, il metodo secondo me deve partire da una corretta informazione. Oggi molte delle opinioni sono basate su, abbastanza componenti istintive. Sono favorevole, sono contrario, indipendentemente da quello che sono i dati che emergono. Poi dalla comunicazione, perché la gente ha bisogno anche di capire perché e come si riesce a fare o non si riesce a fare un evento. Il terzo punto è comunque una condivisione, Pescante ha perfettamente ragione, o esiste una scelta progettuale comune, oppure quando incrociamo i veti abbiamo già perso per definizione, e questo è un problema culturale paese. A quel punto la serietà nella realizzazione, e io qui credo che la combinazione pubblico-privato abbia grandi opportunità, come era del resto già sul progetto di Roma, come è stato dimostrato che si è riuscito a fare a Londra, si è riuscito a fare a Pechino, eccetera. Allora, professore, io la ringrazio anche lei per essere stato con noi, così come il nostro Dario Ricci. Grazie. Battista e Pescante li abbiamo già salutati. Un ringraziamento a Laura Faggin e Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, come sempre le ragazze del Centralino preziosissime. Vi auguro una buona giornata, ci risentiamo domani come sempre dopo il GR delle 9. Ricordati, mancano 20 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.